Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, giovedì 15 gennaio 2009, 8:32 minuti, quasi 33. Oggi parliamo di economia, di crisi economica, puntiamo un faro soprattutto sulla Germania. La Germania è in recessione, meno 2% nel quarto trimestre. La Cina toglie a Berlino il terzo posto nelle classifiche mondiali, la grande potenza tedesca sembra in difficoltà. Oggi, tra l'altro, la Banca Centrale Europea si riunisce a Francoforte e dovrebbe decidere un taglio dei tassi di interesse. C'è chi dice del 50, c'è chi dice addirittura dello 0,75% di fronte alle difficoltà complessive dell'economia europea. Ne parliamo con Beda Romano. Buongiorno Beda. Buongiorno. Beda Romano è corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, segue tutti i giorni vicende appunto tedesche, anche oggi scrive appunto sul Sole 24 Ore della Germania in recessione e degli altri problemi collegati a questo, peraltro anche i dati negativi di Deutsche Bank che ha fatto registrare un notevole passivo. I segnali, appunto, le nuvole nere si stanno addensando, la BCE sta cercando di correre un po' ai ripari, cercando di allentare appunto una politica monetaria che forse aveva stretto troppo e un po' intempestivamente prima, nei mesi scorsi, quando già qualche nube era all'orizzonte, quando invece la BCE aveva puntato la sua attenzione sull'inflazione alzando i tassi di interesse nella prima parte di quest'anno. Io ricordo agli ascoltatori il numero verde 800 24 00 24 e chiedo a Beda Romano, la politica monetaria, la politica della Banca Centrale Europea può fare qualcosa di fronte alle difficoltà così vaste, così strutturali che sembrano incontrare appunto le economie del vecchio continente? Beda Romano. Ma credo che possa fare qualcosa naturalmente, ridurre il costo del denaro aiuta perché riduce inevitabilmente i tassi di interesse di mercato e ridà fiato all'economia dando liquidità alle banche e poi alle imprese. Questa è in una situazione normale. Siamo per certi versi in una situazione un po' meno normale del solito, perché dietro a questa crisi economica si nasconde prima di tutto una crisi finanziaria e una crisi creditizia. Il vero problema in questo momento non è tanto il costo del denaro o il costo di rifinanziamento, è il fatto che le banche, dopo lo scoppio della crisi creditizia negli Stati Uniti, ancora non si fidano le une delle altre, non scambiano denaro, non si prestano denaro a sufficienza e quindi per certi versi il mercato interbancario, il mercato monetario che sta alla base dell'economia è ancora molto asfittico, ancora molto rigido. In queste circostanze per la banca agire sui tassi di interesse è molto più difficile perché l'impatto di una riduzione del costo del denaro ufficiale non necessariamente influenza il comportamento delle banche e il comportamento delle banche nei confronti delle imprese. Ecco, comportamento delle banche che forse nei mesi scorsi, negli anni scorsi è stato un po' esuberante di fronte alla crescita del mercato finanziario con investimenti che si sono rivelati poi investimenti temerari. Quello che è avvenuto per Commerzbank, lo ricordiamo, Commerzbank è stata in pratica nazionalizzata, acquistata una quota importante, lo Stato tedesco rischia di ripetersi anche per Deutsche Bank, cioè sulla necessità di un intervento molto forte da parte dello Stato. Deutsche Bank ieri ha comunicato perdite per quasi 5 miliardi, il titolo in borsa ha fatto segnare una grave flessione. Ecco, in questa prospettiva il sistema bancario tedesco era considerato, uno così come la Germania, uno dei sistemi bancari più forti, più solidi, sicuramente sta cambiando radicalmente, c'è il rischio, Beda Romano, glielo chiedo, di vedere appunto una modifica profonda degli assetti del sistema bancario tedesco con una virtuale o pratica nazionalizzazione delle banche? Ma il sistema bancario tedesco è un sistema bancario che ha sofferto molto di questa crisi, inevitabilmente, e ha sofferto molto di questa crisi per certi aspetti proprio per le sue caratteristiche. È un sistema bancario a tre pilastri, dove il mercato pubblico, le istituzioni pubbliche rappresentano circa il 50% dei depositi, più o meno. Gli altri due pilastri sono quello privato e quello cooperativo. questi due pilastri, quello privato e quello cooperativo, sono minoritari all'interno del sistema bancario tedesco. Questa crisi ha messo in difficoltà in primo luogo le banche pubbliche. Ci ricordiamo che nel 2007 le prime istituzioni finanziarie in difficoltà furono delle banche pubbliche regionali. Poi successivamente, nel corso del 2008, le stesse difficoltà le hanno incontrate le grandi banche private. Abbiamo parlato di Commerzbank, ma oggi anche Deutsche Bank è in difficoltà, almeno ha chiuso molto male il 2008. La mia impressione è che, al di là delle operazioni puntuali del governo tedesco, la settimana scorsa lo Stato ha deciso di nazionalizzare parzialmente Commerzbank, nei giorni scorsi lo Stato è intervenuto per facilitare un'operazione bancaria tra Postbank e Deutsche Bank, ma al di là di queste operazioni puntuali, la mia impressione è che inevitabilmente questa crisi finanziaria porterà a un cambiamento strutturale del mercato e in una direzione di un maggiore consolidamento del mercato tedesco. In Germania, la Germania conta più o meno 2.000 istituzioni bancarie, è un mercato estremamente parcellizzato, dove il settore pubblico e il settore cooperativo sono atomizzati per molti aspetti. A confronto di altri paesi, la Germania ha circa 2.000 istituzioni finanziarie, l'Italia e la Francia più o meno 1.900. Quindi ci si rende conto dello spazio che la Germania ha in un processo di consolidamento e la mia impressione è che questa crisi comporterà una forte ondata di fusioni e aggregazioni, soprattutto nel settore pubblico e soprattutto in quel campo che è quello delle Landesbanken, ossia delle banche regionali, certo, e delle Sparkassen, le casse di risparmio. Ecco, in questa prospettiva l'intervento pubblico, non solo sul fronte finanziario, è un intervento che si sta rivelando appunto vitale per cercare una ripresa del sistema economico. L'azione del governo tedesco, della cancelliera Angela Merkel, è stata vista un po' con qualche cautela dall'esterno, proprio per le cautele e le incertezze sul fronte della possibilità di un intervento pubblico, che poi invece Angela Merkel ha fatto in maniera anche sostanziale, almeno come promesse. Qual è in questo momento l'atteggiamento del governo tedesco e la volontà del governo tedesco di intervenire drasticamente per affrontare i nodi non solo finanziari ma anche di rilancio della domanda e di rilancio dell'economia, Beda Romano? Ma il governo tedesco è stato accusato, e credo per certi versi giustamente, di essere stato lento a capire la gravità della crisi ed è stato lento quindi ad agire. Il governo tedesco probabilmente ha pensato che questa crisi fosse semplicemente una recessione magari grave, ma una recessione fra tante recessioni. E quindi il governo tedesco ha applicato i concetti economici propri della Germania: stabilità, sguardo a lungo termine, non bisogna intervenire nell'economia, non bisogna agire con un eccesso di spesa pubblica. Questo è stato il modo in cui la Germania di Angela Merkel ha reagito nel primo anno e mezzo di crisi. Poi naturalmente improvvisamente il governo si è reso conto che la situazione era probabilmente molto più grave del previsto e che c'era un forte rischio di vedere questa crisi trasformarsi da recessione a depressione. Ed ecco perché a un certo punto la Germania, e bisogna dare atto del fatto che è diventata improvvisamente realistica, ha deciso di agire con maggiore forza e quindi nel giro di 2 mesi, dopo numerose pressioni, ha lanciato 2 programmi di politica economica di stimolo, il primo di circa 31 miliardi di euro presentato nell'autunno scorso e poi, proprio nei giorni scorsi, un altro programma di circa 50 miliardi di euro. Quindi vi è a questo punto da parte della Germania la consapevolezza della gravità della crisi, però al tempo stesso non possiamo chiedere alla Germania di abbandonare del tutto i suoi punti di riferimento economici. E quindi i programmi che la Germania ha introdotto sono programmi per certi versi di lungo termine, con una forte insistenza sugli investimenti pubblici infrastrutturali. E un altro aspetto interessante è che la Germania ha deciso sì di aumentare la spesa pubblica e di aumentare quindi la presenza dello Stato nell'economia, ma ha deciso anche di creare un fondo con il quale si è impegnata di fronte ai cittadini tedeschi di rimborsare questo nuovo indebitamento con scadenze molto rigide. In altre parole, la Germania è pronta ad agire con maggiore forza e vigore nell'economia, ma non vuole assolutamente assistere a una deriva dei conti pubblici e si è già impegnata ora a una riduzione del debito il più presto possibile. Ecco, la Germania certamente è un paese che ha la disciplina di bilancio come uno dei suoi punti forti e in cui pesa ancora il fatto di aver vissuto, almeno negli anni del secolo scorso, della prima metà del secolo scorso, quell'iperinflazione che poi ha portato dove ha portato con la Repubblica di Weimar e l'avvento del nazismo. Sentirei Andrea da Como, buongiorno. Buongiorno e complimenti per questi spazi. Tre cose flash. La prima è, mi piacerebbe che adesso i sostenitori del liberismo, del capitalismo autoregolatore facessero pubblica ammenda anche a Radio 24, perché lo Stato non va bene quando ci sono profitti alti, poi ne si invoca l'aiuto quando si è nel fango fino al collo come in questo momento. Punto primo. Punto secondo, vorrei aver avuto tra le mani, io sono detentore di mutuo a tasso variabile con la banca che non mi avvisò delle avvisaglie qualche anno fa, vorrei aver avuto Trichet tra le mani qualche mese fa. E anche chi deve controllare che le banche adesso facciano scendere i tassi con la stessa velocità con i quali alzavano i tassi quando si alzava il BCE. L'ultimissima cosa, ho l'impressione, leggendo la stampa internazionale, che in Europa quando si interviene per aiutare in questo stato di crisi ci siano ovviamente interessi diversi e quant'altro, ma una sorta di patto nazionale per salvare il paese, e mi sembra che in Italia invece ci siano soltanto operazioni di immagine e di raccolta di consenso facile e populista. È una mia impressione, è la stampa che li descrive così o un po' registriamo un'altra edizione dell'incapacità della nostra classe politica? Volevo sapere qual è il vostro parere su queste tre cose. La ringrazio, le domande sono abbastanza difficili, chiedo un minuto di tempo di sospensione e lascio la linea del traffico. Dietro la notizia. Bentornati a Dietro la Notizia, tre rapide risposte ad Andrea da Como che avevamo lasciato in sospeso. L'autocritica dei liberisti, indubbiamente, io mi annovero tra questi, indubbiamente il liberismo qualche colpa ce l'ha, lo Stato è chiamato a intervenire in tutti i paesi, in tutti i grandi paesi industrializzati, ma anche lo Stato qualche colpa ce l'ha, perché all'interno della teoria liberale c'è un fatto essenziale, che il mercato deve svolgersi secondo delle regole, secondo dei controlli che mettono tutti sullo stesso piano. Che evitino i monopoli, che evitano il fatto che ci siano i furbi, che non ci sia trasparenza del mercato. Queste regole devono essere dettate dallo Stato, devono essere controllate dallo Stato, e forse le regole sono state inefficaci, inefficienti, incapaci di controllare in tempo, soprattutto sul fronte americano, quell'esuberanza irrazionale dei mercati che ha portato alla crisi attuale. Quindi indubbiamente il sistema di mercato è un sistema imperfetto, un sistema in cui le regole sono fondamentali, ma è comunque ancora il migliore rispetto a tutti gli altri. Sul fronte degli interventi per la crisi, la Germania ha fatto molto, l'Italia sta facendo molto poco. La Germania è in condizioni di fare molto perché ha un debito pubblico che è metà di quello italiano, ha ancora dei margini di manovra. La possibilità dei conti pubblici italiani di sostenere forti misure di rilancio è molto limitata e indubbiamente bisogna tener conto di questo, però che un po' più di coraggio e un po' più di capacità di intervenire soprattutto sul fronte della capacità di liberare risorse e liberare possibilità di intervento. Gran parte delle opere pubbliche in Italia sono bloccate non tanto per la mancanza di risorse quanto per la mancanza di disciplina amministrativa e di capacità di far funzionare appunto gli appalti, le commesse, di aprire i cantieri. Ecco, una capacità di liberare in questo senso la spesa pubblica potrebbe essere molto utile. Sul fronte dei tassi e dell'autocritica per Trichet, se ha sbagliato nei mesi scorsi, lascio la parola a Beda Romano. Ma ha sbagliato nei mesi scorsi, questo è un grande punto controverso. Non dobbiamo dimenticare che la banca ha aumentato sì il costo del denaro in estate, lo ha fatto di 25 punti base, Lo ha fatto contro il volere di molti, il mercato era completamente contrario a questo aumento. A sua giustificazione due aspetti. Prima di tutto eravamo in un momento in cui il costo del petrolio era estremamente elevato, le materie prime continuavano ad aumentare e questo inevitabilmente si stava travasando sui prezzi al consumo. Seconda giustificazione, questo aumento del costo del denaro è arrivato sì in piena crisi finanziaria, ma attenzione, la crisi è cambiata radicalmente il 15 settembre del 2008 quando fallisce la banca di investimento americana Lehman Brothers. La crisi in quella circostanza ha cambiato volto. Prima era una crisi finanziaria di un certo tipo, il 15 settembre cambia radicalmente volto e assistiamo quindi al tracollo delle borse, al fallimento delle banche e a un netto rallentamento dell'economia con l'entrata in recessione di molti paesi. Quindi la banca quell'avvenimento non poteva prevederlo. Detto questo, è evidente che la banca forse ha commesso un errore. Detto questo, non so quanto l'aumento di 25 punti base del costo del denaro in quella circostanza abbia veramente cambiato le cose per l'economia in generale. Per chi invece aveva sottoscritto un mutuo, inevitabilmente ha avuto un impatto. Indubbiamente. Paolo da Pavia, buongiorno. Buongiorno a lei, al suo ospite e a tutti gli ascoltatori. Grazie. La mia è una domanda, se vuole, un po' polemica e forse altrettanto banale, ma ho letto questa settimana che Deutsche Bank ha sconsigliato di investire nel sistema bancario italiano. Stamattina sento da voi, anche ieri, che Deutsche Bank è in grosse difficoltà. Volevo sapere un suo parere, grazie. Grazie, ma penso che le due cose non siano per nulla collegate. Ci sono dei report delle banche che ovviamente consigliano, sulle basi di previsioni che fanno loro, sugli andamenti finanziari, consigliano gli investitori in un senso o in un altro. E poi i conti di Deutsche Bank in rosso derivano probabilmente da altri fattori. Beda Romano. Mi dispiace, non ho sentito la domanda. Ma diceva l'ascoltatore sul fatto che Deutsche Bank aveva fatto delle previsioni consigliando gli investitori di non investire in Italia e poi come correlare questa cosa col fatto che Deutsche Bank abbia conti in rosso. No, non sapevo che Deutsche Bank aveva dato il consiglio di non investire in Italia, ma non credo che ci sia un grande legame. I conti in rosso di Deutsche Bank sono dovuti fondamentalmente all'andamento dei mercati internazionali, alla forte volatilità dei mercati internazionali. La banca ha annunciato perdite per 4,8 miliardi di euro nel quarto trimestre dell'anno, che è proprio il trimestre che comincia con il fallimento di Lehman Brothers di cui parlavo prima. Per l'insieme del 2008 le perdite sono di 3,9 miliardi, ma la banca ieri ha sostenuto che queste perdite sono fondamentalmente dovute a un bilancio che ha sofferto estremamente della volatilità dei mercati. Ecco, c'è un ascoltatore che ci chiede con un SMS, non avete parlato della Cina, la Cina che ha superato la Germania. Che effetto ha fatto ieri questa notizia in Germania, Beda Romano? Ma non ha avuto un forte impatto, anche perché è vero che la Cina ha superato la Germania sulla base di un certo numero di criteri economici. Detto questo, però, la Germania dovrebbe essere rimasta nel 2008 il primo esportatore mondiale ed è lì in un certo senso che si sta giocando la partita Cina-Germania. Da qualche anno a questa parte la Germania si aspetta di essere superata dalla Cina nella classifica dei grandi esportatori mondiali. Probabilmente non è successo nel 2008. Le possibilità che succeda nel 2009 e nel 2010 sono incerte proprio a causa della crisi economica, ma è lì dove si sta giocando la partita tra i due paesi, se partita esiste fondamentalmente. La Germania comunque vede nella Cina non tanto un concorrente quanto un enorme mercato di cui approfittare il più possibile e nel quale vendere beni di consumo, ma soprattutto beni di investimento, e in questo la Germania negli ultimi anni è stata maestra. Ecco, sotto questo profilo la Germania continua ad essere una capofila a livello europeo dei paesi esportatori. E indubbiamente la crisi internazionale, anche lo stesso rallentamento cinese, che continua comunque l'economia cinese a marciare a buon ritmo, provocherà e ha provocato anche un rallentamento su questo fronte. Le prospettive per l'economia tedesca, le prospettive comunque parlano di una recessione nel 2008, per concludere, Beda Romano. Del 2009, sì. Scusate. La Germania sta soffrendo per certi versi, voglio dire, le difficoltà di oggi della Germania sono il riflesso della buona salute degli anni scorsi, mi spiego meglio, la Germania è riuscita a crescere molto nel 2005, 2006, 2007 e in parte 2008 grazie alla sua forte esposizione internazionale, in un momento di forte modernizzazione dei paesi emergenti, la Cina, la Russia, l'India e il Brasile. La Germania è riuscita ad esportare moltissimo in questi paesi, beni di investimento soprattutto. Oggi, in un momento di forte rallentamento del commercio internazionale e in un momento di inevitabile frenata economica in questi paesi emergenti, assistiamo a un tracollo della produzione industriale in Germania e quindi di un tracollo delle esportazioni tedesche verso questi paesi. Quindi, grazie mille, dobbiamo fermarci qui, Beda, e certamente ecco, forse speriamo di poter dire che dopo la fase di caduta ci possa essere, anzi ci deve essere poi una fase di crescita che può essere, speriamo, vicina. Grazie a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, di essere stato con noi, grazie a quanti ci hanno seguito, grazie a quanti ci hanno chiamato e non abbiamo potuto mettere in linea, l'appuntamento è per domani.